L'almanacco dell'altro ieri. L'altro ieri, lunedì 27 luglio, era il 209° giorno dell'anno. Il sole sorgeva alle 5:58 e tramontava alle 20:34. La luna, al primo quarto, sorgeva alle 13:35 e tramontava a 00:12. Potevate nell'orto oppure in vaso piantare, trapiantare, cogliere la rapa, le carote, ravanelli, patate, le piante a radice. L'altro ieri avvenne. Il 7 luglio 1830 il popolo parigino insorse contro re Carlo X. Ci saranno 3 giorni di scontri, le famose 3 gloriose giornate, e il 2 agosto il monarca fu costretto ad abdicare. 1866 viene completato il cavo atlantico che permetterà per la prima volta trasmissioni transatlantiche via telegrafo. 1921 viene isolato per la prima volta l'ormone dell'insulina. 1929, debutto per il primo romanzo di Alberto Moravia, Gli Indifferenti. 1942, Seconda Guerra Mondiale, Josef Stalin emana l'ordine numero 227 in risposta all'allarmata avanzata tedesca in Russia. In base a quest'ordine, chiunque ritiri o abbandoni le sue posizioni senza ordine specifico verrà giustiziato immediatamente. 27 luglio 1982, la storia dell'evasione di Otto e la sua voglia di essere libero. 2018, si verifica l'eclissi lunare più lunga del XXI secolo. Nasceva il 27 luglio 1824 a Parigi, in Francia, Alexandre Dumas, figlio. Alexandre Dumas figlio è stato figlio per l'appunto di Alexandre Dumas padre, che lo riconobbe soltanto dopo i primi 7 anni della sua vita. Nonostante le traversie legali, a proposito dell'affidamento, Dumas figlio ereditò dal padre lo stesso talento artistico e letterario. Se Dumas padre ottenne straordinario successo grazie al Conte di Montecristo e ai 3 moschettieri, per esempio, il nostro autore in questione lo ottenne grazie alla Signora delle Camelie. La signora a cui piacciono le camelie pare essere esistita veramente, una donna con cui Dumas ebbe una relazione e che ispirò l'opera, che è stata scritta nel 1848, esattamente dopo un anno alla morte di lei. Quest'opera di Dumas ispirò anche Giuseppe Verdi per una delle sue più famose opere, La Traviata, che è la prima della trilogia composta da Il Trovatore e da Il Rigoletto. Io nulla dicevo, ma l'anima mia tutta mi pareva trasfusa nel cuore e il cuore negli occhi. Quello che Alexandre Dumas figlio vuole trasmettere con la sua opera è proprio quanto testimonia questa citazione. L'amore di età romantica è un amore assoluto e per certi versi disinteressato, un amore che porta con sé un sacrificio inimmaginabile e instancabile, un amore affascinante pari tanto quanto alla sua tragicità, che già prima della fine della vicenda ci aspettiamo. Un po' secondo le linee dei dolori del giovane Werther, sempre per rimanere in tema romantico. E sta a noi lasciarci trasportare o meno dalla sua dolcezza e dalla sua malinconia. When they poured across the border, I was cautioned to surrender. This I could not do. I took my gun and vanished. I have changed my name so often. Per questa storia puntiamo i riflettori su Eugène Delacroix e il suo dipinto a olio su tela dal titolo La libertà che guida il popolo, che sicuramente tutte e tutti avrete visto almeno una volta. Il 27 luglio del 1830 le strade di Parigi sono piene di barricate erette dai cittadini della capitale francese in segno di protesta nei confronti dell'imperatore Carlo X di Borbone, che aveva emanato una serie di provvedimenti che scioglievano la Camera dei Deputati, toglievano la libertà di stampa, ristabilendo la censura e favorivano l'aristocrazia terriera. Il popolo insorse a queste disposizioni liberticide e i modi che ne nacquero, iniziati il 27 luglio e terminati il 29, passarono alla storia come le tre gloriose giornate. Proprio da questo episodio il pittore francese Delacroix trasse ispirazione e diede vita al primo esempio di iconografia politica della storia. Si tratta del quadro dal titolo La libertà che guida il popolo, oggi conservato al Louvre di Parigi. La scena è dominata da Marianne, la rappresentazione nazionale allegorica della Repubblica Francese, la quale in questo quadro si eleva anche a simbolo della libertà in generale. Marianne è circondata da una folla tumultuosa all'interno della quale Delacroix dipinge persone di tutte le età e classi sociali. Alla destra della donna c'è un bambino armato di due pistole. Alla sua sinistra ci sono un artigiano col cilindro in testa e il fucile in mano e un operaio che impugna la spada. Un manuale dei cantieri edilizi. Ai piedi della libertà, oltre che alcuni corpi morti, c'è un giovane manuale che guarda la donna con occhi pieni di speranza, come se fosse lei l'unica in grado di restituire dignità al popolo francese. Dietro tutti questi personaggi viene rappresentata una massa indistinta di uomini, di spade alzate al cielo e di fucili. Il pittore attua questa scelta in modo tale da permettere a ciascuno dei suoi concittadini di potersi identificare fra la gente che aveva combattuto per la salvezza della Francia. D'altronde, anche lui non aveva mai preso parte al conflitto, come racconta in una lettera al fratello, che dice, però, «Ho cominciato un tema moderno, una barricata, e se non ho combattuto per la Francia, almeno dipingerò per essa». Un po' come i nostri e le nostre maghe da tastiera. From the shadow. Il Gorilla 8 era stato regalato dal governo del Camerun agli Stati Uniti. Era stato chiamato così in onore del governatore dell'Illinois, Otto Kerner. Era stato strappato dal suo habitat naturale per essere rinchiuso al Lincoln Park Zoo. Quello che segue è ciò che accadde il 27 luglio 1982 a partire dalle 9 di mattina. Estate piena, caldo torrido,